Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di uno dei fondamenti insostituibili della nostra cultura, della nostra civiltà, e cioè della civiltà classica, in particolare di quella greca, e ne parliamo attraverso la forma letteraria e non soltanto, forse più espressiva di quella civiltà, e cioè il mito. Ercole, Giove, Achille sono tutti personaggi e con loro tanti altri che sentiamo spesso ancora noi familiari per le opere letterarie e artistiche che li hanno rappresentati. E su questo tema, sul tema del mito della civiltà greca, vi segnalo il libro di una delle maggiori intellettuali del Novecento, Simone Weil, che si intitola La rivelazione greca, è pubblicato da Adelphi, 490 pagine, 28 euro, curato da Maria Concetta Sala e Giancarlo Gaeta. Dicevo, la Weil è una grande intellettuale, morta poco meno che quarantenne nel 1943, ebrea con una particolare sensibilità e attenzione per il cristianesimo, molto severa con se stessa, desiderosa di conoscere direttamente le difficoltà, le grandi difficoltà della vita, una sensibilità questa che la portò anche a lavorare in fabbrica per condividere con gli operai la loro condizione. E proprio agli operai, alle masse popolari, si rivolge con alcuni scritti che aprono questa raccolta, nei quali presenta in poche fulminanti pagine tre figure entrate appunto nel mito e nell'identità occidentale, cioè Elettra, Antigone e Filoctete. E poi troviamo altri scritti, un altro bellissimo sull'Iliade, presentato come il poema della forza e quindi in questo senso di straordinaria attualità, perché, dice la Weil, coloro che avevano sognato che la forza, grazie al progresso, appartenesse oramai al passato, hanno visto in questo poema un documento. Coloro che oggi, come un tempo, sanno discernere la forza al centro di ogni vicenda umana, vi trovano il più bello, il più puro degli specchi. E poi ancora troviamo altri scritti sulla ricerca di Dio, su Platone, sui pitagorici, in una ricerca che, spiega Gaeta, vuole riconciliare la religione con la ricerca della verità, con la scienza, con l'arte. Dal libro della Weil vi propongo alcune righe che sintetizzano bene la grandezza e di nuovo l'attualità del sapere greco nella sua interpretazione. Malgrado la breve ebbrezza causata dalla riscoperta delle lettere greche durante il Rinascimento, per 20 secoli il genio della Grecia non è resuscitato. Qualcosa ne è apparso in Villon, Shakespeare, Cervantes, Molière e una volta in Racine. La miseria umana è messa a nudo a proposito dell'amore nelle Col de Femme, in Phèdre. Strano secolo, d'altronde, nel quale, contrariamente all'età epica, non era consentito percepire la miseria dell'uomo altrimenti che nell'amore, mentre gli effetti della forza nella guerra e nella politica dovevano essere sempre avvolti di gloria. Si potrebbero forse citare anche altri nomi, ma nulla di quanto hanno prodotto i popoli d'Europa vale il primo poema conosciuto che sia apparso presso uno di essi. Ritroveranno forse il genio epico quando sapranno credere che nulla è al riparo dalla sorte, che mai si deve ammirare la forza, né odiare i nemici, né disprezzare gli sventurati. È improbabile che ciò accadrà presto. E proprio questi scritti di Simone Weil sono considerati come una delle testimonianze più alte dell'influsso della civiltà greca nel libro di Carlo Carena di cui parliamo adesso. Questo libro si intitola Il fascino del mito, è pubblicato da Salerno, 116 pagine, 8,90 euro. La Weil, dice Carena, trova nella mitologia dei greci la simbologia del destino umano, vi trova per miti la propria concezione dell'uomo, della sua storia. E in questo libro Carena ci dà in poche ma dense pagine una rilettura dei miti più famosi della civiltà greca, sottolineandone l'influsso che questa esercitò sull'arte successiva fino ai giorni nostri. Ma sentiamo l'autore. Buonasera Carlo Carena. Buonasera a lei, dottor Carrubba. Carlo Carena ha scritto questo libro per sottolineare l'importanza e l'attualità che i miti hanno e che hanno avuto sullo sviluppo dell'arte visiva, letteraria in questi ultimi secoli, anzi in questi ultimi millenni. Ecco, sì. Che cosa ci possono dire i miti oggi? Intanto, perché i tempi naturalmente siano molto lontani da quelli in cui sono nati, quelli in cui hanno alimentato la religione, la poesia, la fantasia, però insomma un po' di presenza intorno a noi c'è sempre, non solo per chi a scuola ha studiato e deve studiare l'Iliade, dell'Odissea, i tragici, Pindaro e Virgilio, Però insomma, anche uno che legge la Divina Commedia, io ho calcolato più o meno che nella Divina Commedia ci sono 200 citazioni di miti. Uno che legge i canti di Pound senza conoscere un po' di mitologia ne capisce poco. Uno che va a Versailles oppure che va a visitare le stanze vaticane deve sapere alcune storie grandi, famose e ripetute nei secoli. E anche tra noi che parliamo, se a un certo punto saltasse fuori di dire oh che faticaccia questa intervista, diciamo che fatica di Sisifo, oppure diciamo che impresa titanica, la tela di Penelope, il tallone d'Achille. Insomma, un po' di mito è dentro anche nella nostra quotidianità. Ecco, lei però sottolinea nel suo libro che i miti nascono perché in fondo c'è sempre una parte remota, lei dice, di realtà. In che senso si può trovare un senso di realtà nei miti? Beh, intanto il mito è una trasfigurazione, un'interpretazione fantastica, psicologica della realtà. L'uomo a contatto con la natura, a contatto con la vita, da quando uscì dallo stadio proprio esclusivamente primitivo, esclusivamente irrazionale, cominciò a costruire, a dare forma alle sue esperienze umane, ai fenomeni della natura, anche questo fu importantissimo come nascita del mito. La paura che poteva incutere un temporale, una tempesta di mare, il sole che nasceva e tramontava, da principio tutto questo ha sgomentato e poi a poco si è trasfigurato fantasticamente nella poesia epica, nella poesia lirica, nella filosofia e nella religione, e creando quelle grandi storie che partendo appunto dagli eroi semidivini sono arrivati agli uomini, ai guerrieri e poi agli uomini comuni. La mitologia è la storia di tutte queste esperienze umane trasfigurate dalla poesia ed è un lascito, perché come cerco di raccontare in queste poche pagine, è un lascito che l'antichità ha lasciato in eredità ai nostri secoli, i secoli della classicità, l'umanesimo, il 500, il 600, ma anche poi appunto la letteratura e l'arte. Pensiamo ad Annunzio, insomma, ecco, fino ai poeti più vicini a noi, alla letteratura più vicina a noi. Prima di parlare con lei ho ricordato un libro appena uscito di Simone Weil nel quale vengono raccolti gli scritti della stessa sulla civiltà greca. Sono degli scritti che lei cita nel suo libro. Ecco, che cosa ci dice la Weil del mito? Beh, lei mi sollecita su una delle scrittrici che mi affascinano di più. La mitologia greca ha rivelato a Simone Weil il significato del dolore umano, della tragedia della vita. Lei ne ha attraversate parecchie durante la guerra, le persecuzioni razziali, eccetera. Il conforto, ecco cosa le è servito, credo, mi pare, il conforto che ha portato a lei è stato nel rispecchiarsi, nel ritrovare nelle sue le esperienze delle grandi eroine dell'antichità, le sofferenze di Antigone, ecco, come lei sa, Antigone è l'eroina purissima e questo ideale di Simone Weil, insomma, la maternità di Ecuba, il dolore dei figli, eccetera. Il libro che mi ha citato è intitolato, nell'edizione originale, almeno una parte, è intitolato Le intuizioni precristiane, ecco. La Weil è sempre stata sulla soglia della cristianità, del cristianesimo, però ha visto nel dolore, nella sofferenza, nell'amore di questi grandi eroi antichi, soprattutto di queste grandi eroine antiche, uno stimolo straordinario a resistere alla vita, insomma, a soffrire, perché la sofferenza ha questi grandi significati umani che il mito ha messo in luce straordinariamente, soprattutto sulla scena, nel teatro, con la tragedia dedicata alle grandi famiglie, alle grandi stirpi che hanno dominato la fantasia e hanno rappresentato la sofferenza in un modo spaventoso. A proposito delle grandi eroine di cui abbiamo parlato, lei nel suo libro scrive che anche là dove si direbbe che il mondo classico non dice più nulla, le loro immagini, le loro storie agiscono potentemente, non sono mute, quindi sono delle figure ancora familiari queste delle grandi eroine a noi? Direi assolutamente di sì. Andando a teatro, leggendo Racine, oppure assistendo anche a un'opera musicale, ci capita di trovare sulla soglia di casa, di vedere, di ricordare, che so, Medea o Fedra, Quale grande amore non richiama alla memoria l'amore totale, tragico, direi spudorato, per esempio, di Medea o peggio ancora di Fedra, innamorata la matrigna, innamorata del figliastro fino alla morte di entrambi, e Medea innamorata del nemico a scapito dei suoi. Il mito, i personaggi del mito, i miti, le vicende dei miti non sono altro che metafore della nostra vita. E sulla scena, quando un greco vedeva rappresentare appunto le vicende degli argonauti piuttosto che quelle della guerra di Troia, non faceva altro che vedere non delle storie ma dei racconti delle esperienze, delle stirpi, degli individui, dell'umanità intera. Ecco, nel mito c'è tutto quello che l'umanità ha saputo fare di bello e di brutto, ha saputo creare, soffrire. Nel mito c'è, non ricordiamo, come io dico anche poi verso la fine di questo libretto, che non poi tutto è così triste, è così drammatico, ci sono dei miti spassosissimi, cioè c'è anche il lato divertente della vicenda umana, per fortuna qualche divertimento nella vita ci si diverte anche qualche volta. Grazie a Carlo Carena, autore de Il fascino del mito. Buona serata. Grazie a lei, buon lavoro. I miti greci, tutte chiacchiere, diceva uno scrittore francese, Bernard Le Bouvier de Fontenelle, che visse quasi 100 anni, tra il 1657 e il 1757. L'antica storia dei greci, scriveva, non è che un cumulo di chimere, di fantasticherie e di assurdità. E allora, aggiunge, per quale ragione diamo retta a questi miti? Quale sarebbe stato, scrive, questo amore degli uomini per delle falsità palesi e ridicole, e perché non è durato nel tempo? E questa la domanda alla quale risponde nel saggio che è contenuto nel libro sull'origine delle favole, nel quale troviamo poi altri due saggi, altri due brevi scritti dello stesso scrittore, questo volume curato da Elena Pozzi con un testo originale francese a fronte ed è pubblicato dalla Vita Felice, 138 pagine, 10,50 €. Il saggio sui miti, sulle favole, è del 1687 e qui Fontenelle smonta appunto il mito greco e cerca di spiegare le ragioni del permanente successo di questo filone letterario. Tra le ragioni di questo successo, Fontenelle scrive che c'è anche il rispetto cieco dell'antichità e qui fa un curioso parallelo tra le favole degli americani e quelle dei greci, ma anche i cinesi, ricorda, inventarono i loro miti per spiegare i fenomeni naturali. E poi Fontenelle nota che i miti o le favole diventarono qualcosa di piacevole. Scrive infatti, siccome esse, le favole, non ispirano che idee conformi al gioco di immaginazione più comune tra gli uomini, la poesia e la pittura vi si adattarono perfettamente e si sa quale passione avessero i greci per queste belle arti. Divinità che agiscono sovente in maniera sorprendente non possono mancare di creare un effetto piacevole sia nei poemi sia nei dipinti, per i quali non c'è altro scopo se non di sedurre la fantasia. Poi vi dicevo altri due scritti che sono contenuti in questo libro. Il primo è dedicato al tema della libertà dell'anima, che venne severamente censurato dal Parlamento francese per ricomparire poi questo scritto nel pieno dell'illuminismo e del clima che avrebbe portato alla rivoluzione francese, e qui in questo saggio viene affrontato il tema del rapporto in particolare tra libertà individuale e prescrizioni di Dio sulle azioni libere. Il terzo saggio infine è quello sulla felicità e qui Fontenelle esalta la ricerca dei piaceri semplici che possono portare a un equilibrio semplice che lo scrittore così descrive. Certamente bisogna ritornare ai piaceri semplici, quali la tranquillità della vita, la socialità, la caccia, la lettura, eccetera, se essi non costassero meno degli altri, in proporzione al fatto che sono meno vivi, non meriterebbero di essere agli altri preferiti e gli altri varrebbero tanto il loro prezzo che questi il loro. Ma i piaceri semplici sono sempre dei piaceri e non costano nulla. Un altro grande vantaggio consiste nel fatto che la fortuna non può levarceli, sebbene non sia ragionevole far dipendere la nostra felicità da tutto ciò che è più esposto ai capricci del caso. Sembra che il più delle volte scegliamo con cura i luoghi meno sicuri per riporvela. Preferiamo avere tutto il nostro bene su di un vassoio piuttosto che sottoterra. E a questo punto il confettino. Parliamo di miti, naturalmente, con un bellissimo libro di Laura Orvieto, una grande scrittrice di libri per ragazzi che ebbe un'attenzione particolare proprio per la civiltà greca romana, e i suoi libri dopo più di 100 anni ancora sono di grande attualità. Adesso ne è uscita una nuova edizione col titolo Storie di bambini molto antichi, illustrato da Rita Petruccioli e pubblicato da Mondadori, 238 pagine. Troviamo qui 12 storie, da Efesto a Zeus, a Ebe, a tanti altri personaggi mitologici, presentati in forma molto accattivante, che faranno accostare i piccoli lettori a molti miti fondanti della cultura greco-latina. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo di civiltà classica. Una delle maggiori espressioni di quella civiltà è certamente il poeta latino Catullo, nel quale troviamo molti elementi tratti dalla mitologia. E a lui dedica un libro una grande studiosa della civiltà latina, Luca Canali, che con Lorenzo Perilli ci propone I tre volti di Catullo. È pubblicato da Rizzoli, 152 pagine, 9 euro. Un grandissimo poeta, come ricorderete, capace di cantare con versi meravigliosi il suo amore per Lesbia, ma anche un sanguigno protagonista di tante avventure che lo rendono un personaggio complesso. Questo fu Catullo, e qui ne troviamo una specie di biografia attraverso una scelta dei suoi versi più significativi tradotti in italiano, di cui però troviamo anche la versione originale in latino. E da questa scelta vi propongo alcuni dei versi più celebri e sorprendenti di Catullo, quelli che hanno reso immortale il suo amore per Lesbia. Viviamo, mia lesbia, e amiamo, e i rimproveri dei vecchi troppo austeri, tutti insieme, non stimiamoli un soldo. Il sole può tramontare e tornare, ma noi, quando cade la breve luce della vita, dobbiamo dormire una sola interminabile notte. Dammi 1000 baci, poi altri 100, poi altri 1000, poi ancora altri 100, poi di seguito 1000, poi di nuovo altri 100. Quando poi ne avremo dati migliaia, confonderemo le somme per non sapere e perché nessun malvagio ci invidi, sapendo che esiste un dono così grande di baci. Torniamo alla Grecia e alla sua cultura, nonché alla sua storia. I miti trovarono una plastica rappresentazione in un'altra arte in cui i greci eccelsero, cioè la scultura. Il più grande di questi scultori fu naturalmente Fidia, l'uomo che scolpì gli dei, come recita il sottotitolo del libro che gli è intitolato, di un archeologo e storico dell'arte greca, Massimiliano Papini, pubblicato dalla Terza, 270 pagine, 19 euro. Di Fidia sappiamo poco e l'autore non si nasconde la difficoltà a scriverne. Lui stesso ricorda che gli originali di Fidia sono chimerici, le fonti letterarie contraddittorie, l'epigrafia non sempre fededegna. Ma ciò nonostante, di Fidia si può scrivere. Papini ci riesce partendo dalle repliche delle opere del grande scultore, repliche che ebbero una enorme influenza nella trasformazione e nella evoluzione dell'arte greca e poi di quella romana. Fu Fidia, per esempio, l'autore dello stupendo fregio del Partenone. Almeno questa è l'interpretazione. Papini si interroga se sia stato veramente opera di Fidia tutto quel ciclo. Probabilmente non fu l'autore di tutto il fregio, dice l'autore, ma fu, come dire, il capo del cantiere che realizzò quell'opera straordinaria. E quindi nel libro troviamo anche un'affascinante presentazione della civiltà greca al suo apogeo attraverso la figura che meglio la interpretò, probabilmente dal punto di vista delle arti visive. Una mostra per avvicinarci al culto dell'arte greca è La bellezza del corpo umano, che si è appena aperta a Martigny, sarà aperta fino a giugno, Martigny in Svizzera, presso la Fondazione Giannadda, e si intitola la mostra La bellezza del corpo nell'antica Grecia, ed è organizzata in collaborazione con il British Museum ed è curata da Jean Jenkins. E questa mostra mi permette di aprire una parentesi con un libro che parla della storia del corpo. Il libro si intitola appunto Piccola storia del corpo, ne è autore Paolo Di Paolo, che ha come collaboratori per il percorso artistico Alma Gattinoni e Giorgio Marchini. È pubblicato da Giulio Perrone, 310 pagine, 16 euro. Il libro ci porta all'età contemporanea e vuole studiare come letteratura e arti visive abbiano vissuto il corpo, oscillando, scrive l'autore, ricordando uno studioso, fra due poli: la necessità di tornare al corpo nudo per ridare legittimità all'individuo, per liberarlo, e all'opposto il bisogno di rivestire di simboli densi il corpo per farlo parlare. E naturalmente questo dilemma fra il corpo nudo e il corpo rivestito di simboli è determinato da un mutamento sociologico sul modo di considerare e di guardare al corpo. E nel libro troviamo appunto la storia di questo percorso con varie opere d'arte e varie citazioni. Da queste ne voglio ricordare una delle prime, dello scrittore italiano Antonio Tabucchi, il quale spiega che cosa fosse il corpo per i greci antichi. Scrive Tabucchi: è il luogo della perfezione estetica, l'idea della suprema bellezza si trova nel corpo, in esso c'è qualcosa di divino, ed infatti gli dei greci hanno un corpo. E poi si arriva fino al nuovo secolo, all'epoca del virtuale, che in qualche misura sembra prefigurare la scomparsa della corporeità. Dall'apogeo del quale Fidia fu uno dei simboli, Atene sarebbe ben presto precipitata con la guerra civile che segnò il momento più drammatico dell'annoso scontro con Sparta, esploso con la guerra del Peloponneso. Questa drammatica vicenda viene ricostruita adesso da un grande storico che, seguendo Senofonte, ci restituisce il clima di un violentissimo scontro politico. Qui siamo molto lontani dal mito, siamo nella realtà molto sanguigna e molto drammatica, molto dura, di una lotta implacabile che fece anche di quella vicenda a suo modo un modello di scontro di potere. Il libro è quello di Luciano Canfora, che si intitola La guerra civile ateniese, pubblicato da Rizzoli, 408 pagine, 19 euro. Quella guerra civile, scrive Canfora, non fu un'esperienza esclusivamente interna ad Atene, anzi, scrive, guerra esterna e guerra civile divengono aspetti di un'unica guerra che coinvolge tutto il mondo greco, che non contrappone soltanto le due coalizioni, ma attraversa verticalmente ogni singola comunità, travolgendo ogni nozione di patriottismo, quindi un'autentica tragedia per la civiltà greca. Dicevo dell'influsso che i miti e la civiltà classica hanno esercitato sulla cultura successiva, e uno degli artisti che meglio ha colto l'ispirazione del mondo classico è stato certamente Andrea Mantegna, al quale è dedicato un volume di 24 ore cultura, la casa editrice che appartiene allo stesso gruppo di questa radio. Il libro si intitola Mantegna e l'autore è Mauro Lucco, un docente universitario, 384 pagine, 99 euro. Il libro, ci spiega l'autore, che è un grande esperto della pittura veneta, si rivolge anche ai non storici dell'arte, ai quali vuole, scrive, raccontare nel modo più piano insieme la vita di Mantegna e i valori della sua pittura con un linguaggio sperabilmente accessibile, scrive egli stesso. L'obiettivo mi pare raggiunto sia per lo stile della presentazione sia per il ricchissimo corredo di immagini, che sono, mi pare, circa 200 immagini che ci aiutano a capire la straordinaria innovazione rappresentata da Mantegna, che è stato rivalutato solo negli ultimi decenni. E questa innovazione passa proprio, scrive Lucco, dalla riscoperta dell'antico, che però, spiega, non è mai una imitazione archeologica di modelli defunti, ma anzi rappresenta il riconoscimento che il mondo antico, così scrive, sia greco che romano, fosse stato il momento più alto della storia dell'umanità da cui muovere per andare oltre, per costruire un mondo migliore. E questo libro sarà presentato a Mantova, alla casa appunto del Mantegna, venerdì 28 alle 18. E a proposito di appuntamenti, vi segnalo un appuntamento milanese il 27 febbraio alle ore 19 al Bistrò del Tempo Ritrovato in via Foppa 4. C'è la quarta puntata di un ciclo di conversazioni organizzate da un docente universitario di lingua e letteratura inglese dell'Università Cattolica di Milano, Enrico Reggiani, che ha organizzato questo ciclo dedicato al rapporto tra l'economia e Shakespeare. Si intitola appunto Shakespeare economista. La quarta puntata è dedicata a Giulio Cesare, ovvero, questo è il titolo dell'incontro, se è cosa che interessa il general Gould. Agli interessati di Shakespeare e di Giulio Cesare segnalo le ultime edizioni di questa dramma, che sono quelle di Mondadori, 9 euro, e quelle di Garzanti, Feltrinelli e Newton Compton, quest'ultime tre tutte con testa a fronte, che costano 8,50 euro le prime due e 6 euro l'ultima. Ultimi arrivi. Vi parlo oggi della seconda puntata di un autore molto popolare. Parlammo della prima uscita di questo piccolo ciclo al quale sta dando vita Francesco Guccini, che continua un suo personale amarcord nel libro Nuovo Dizionario delle Cose Perdute, pubblicato da Mondadori, 150 pagine, 12 euro, libro adatto ai nostalgici dell'idrolitina, dei deflettori, delle granite e di tante altre cose di cui Guccini ci parla. Poi vi segnalo un altro autore famoso soprattutto per il suo rapporto con la musica, cioè Nicola Piovani. Si intitola La musica è pericolosa, è pubblicato da Rizzoli, 194 pagine, 17 euro. Questa è un po' la negazione della nostalgia, perché Piovani scrive dei rapporti tra la musica e la civiltà sonora, evitando esplicitamente di cadere nella nostalgia e ripercorrendo la propria carriera e gli incontri che l'hanno dominata. Infine vi segnalo un romanzo che all'epoca fece scandalo e che rappresentò una rottura negli schemi letterari italiani quando fu pubblicato esattamente 100 anni fa, nel 1914. Il libro si intitola Il peccato. L'autore Giovanni Boine, un morto giovanissimo, di cui questo è l'unico romanzo, riproposto da Incontri Editrici, 126 pagine, 12 euro. Si parla qui dell'amore scandaloso con una suora, con un linguaggio, uno stile che fanno delle parole di Boine parole nuove nella letteratura italiana del XX secolo, con rimandi alle esperienze letterarie di Joyce, Rilke e Mann, come nota Eraldo Affinati nell'introduzione. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Gianmarco Ferronati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento la settimana prossima.